Cari fratelli e sorelle, continuiamo oggi la nostra riflessione su Giovanni Crisostomo, cominciato mercoledì scorso. Dopo il periodo passato ad Antiochia, nel 397, egli fu nominato vescovo di Costantinopoli, la capitale dell'impero romano d'Oriente. Fin dall'inizio, Giovanni progettò la riforma della sua chiesa. L'austerità del palazzo episcopale doveva essere di esempio per tutti, clero, vedove, monaci, persone della corte e ricchi. Purtroppo non pochi di essi, toccati dai suoi giudizi, si allontanarono da lui. Solleciti per i poveri, Giovanni fu chiamato anche l'elemosioniere. Da attento amministratore, infatti, era riuscito a creare istituzioni caritative molto apprezzate. La sua intraprendenza nei vari campi ne fece per alcuni un pericoloso rivale. Egli, tuttavia, come vero pastore, trattava tutti in modo cordiale e paterno. In particolare, riservava accenti sempre teneri per la donna e cure speciali per il matrimonio e la famiglia. Invitava i fedeli a partecipare alla vita liturgica da lui resa splendida e attraente con geniale creatività. Nonostante il cuore buono, non ebbe una vita tranquilla. Pastore della capitale dell'impero, si trovò coinvolto spesso in questioni e intrighi politici a motivo dei suoi continui rapporti con le autorità e le istituzioni civili. Sul piano ecclesiastico poi, avendo deposto in Asia nel 401 sei vescovi indegnamente eletti, fu accusato di aver varcato i confini della propria giurisdizione e diventò così bersaglio di facili accuse. Un altro pretesto contro di lui fu la presenza di alcuni monaci egiziani scomunicati dal patriarca Teofilo di Alessandria e rifugiatisi a Costantinopoli. Una vivace polemica fu poi originata dalle critiche mosse dal Crisostomo all'imperatrice Eudossia e alle sue cortigiane, che reagirono gettando su di lui discredito e insulti. Si giunse così alla sua deposizione nel sinodo organizzato dallo stesso patriarca Teofilo nel 403, con la conseguente condanna al primo breve esilio. Dopo il suo rientro, l'ostilità suscitata contro di lui dalla protesta contro le feste in onore dell'imperatrice, che il vescovo considerava come feste pagane e lussuose, e la cacciata dei presbiteri incaricati dei battesimi nella veglia pasquale del 404, segnarono l'inizio della persecuzione di Crisostomo e dei suoi seguaci cosiddetti giovaniti. Allora Giovanni denunciò per lettera i fatti al vescovo di Roma, Innocenzo I, ma era ormai troppo tardi. Nell'anno 406 dovette di nuovo recarsi in esilio, questa volta a Cucusa, in Armenia. Il Papa era convinto della sua innocenza, ma non aveva il potere per aiutarlo. Un concilio voluto da Roma per una pacificazione tra le due parti dell'impero e tra le loro chiese non poté avere luogo. Lo spostamento logorante da Cucusa verso Pizius, meta mai raggiunta, doveva impedire le visite dei fedeli e spezzare la resistenza dell'esule sfinito. La condanna all'esilio fu una vera condanna a morte. Sono commoventi le numerose lettere dall'esilio in cui Giovanni manifesta le sue preoccupazioni pastorali con accenti di partecipazione e di dolore per le persecuzioni contro i suoi. La marcia verso la morte si arrestò a Comana nel Ponto. Qui Giovanni moribondo fu portato nella cappella del martire San Basilisco, dove esalò lo spirito a Dio e fu sepolto, martire accanto al martire. Era il 14 settembre 407, festa dell'esaltazione della Santa Croce. La riabilitazione ebbe luogo nel 438 con Teodosio II. Le reliquie del Santo Vescovo deposte nella Chiesa degli Apostoli a Costantinopoli furono poi trasportate nel 1204 a Roma, nella primitiva Basilica Costantiniana, e giacciono ora nella Cappella del Coro dei Canonici della Basilica di San Pietro. Il 24 agosto 2004 una parte cospicua di queste reliquie fu donata dal Papa Giovanni Paolo II al Patriarca Bartolomeo I di Costantinopoli. La memoria liturgica del Santo si celebra il 13 settembre. Il Beato Giovanni XXIII lo proclamò patrono del Concilio Vaticano II. Di Giovanni Crisostomo si disse che quando fu assiso sul trono della Nuova Roma, cioè di Costantinopoli, Dio fece vedere in lui un secondo Paolo, un dottore dell'universo. In realtà, in Crisostomo c'è una unità sostanziale di pensiero e di azione ad Antiochia come a Costantinopoli. Cambiano solo il ruolo e le situazioni. Meditando sulle opere compiute da Dio nella sequenza dei sei giorni nel commento della Genesi, il Crisostomo vuole riportare i fedeli della creazione al Creatore. È un gran bene, dice, conoscere ciò che è la creatura o ciò che è il Creatore. Ci mostra la bellezza della creazione e la trasparenza di Dio nella sua creazione. La creazione diventa così quasi una scala per salire a Dio, per conoscere Dio. Ma questo primo passo, che tramite la trasparenza di Dio nella creazione possiamo percepire, quasi vedere Dio, salire a Dio, a questo primo passo si aggiunge un secondo. Questo Dio creatore è anche un Dio della condiscendenza. Noi siamo deboli nel salire, i nostri occhi sono deboli, e così Dio diventa Dio di condiscendenza, e così dice Crisostomo, invia all'uomo caduto straniero una lettera, la Sacra Scrittura, così che creazione e scrittura si completano nella luce della scrittura, della lettera che Dio ci ha dato. Possiamo decifrare la creazione e la creazione ci mostra la realtà della Sacra Scrittura. Dio è da lui chiamato Padre tenero, medico delle anime, madre e amico affettuoso. Ma questo secondo passo, prima la creazione come scala verso Dio, la condiscendenza di Dio tramite una lettera che ci ha dato la Sacra Scrittura, si aggiunge un terzo passo. Dio non solo ci trasmette una lettera, alla fine scende Lui stesso, viene da noi, si incarna e scende fino alla morte nella croce, diventa realmente Dio con noi, il nostro fratello. E a questi tre passi, Dio visibile nella creazione, Dio ci dà una sua lettera, Dio scende, diventa uno di noi, si aggiunge alla fine un quarto passo, cioè all'interno della vita e dell'azione del cristiano, il principio vitale e dinamico è lo Spirito Santo che trasforma le realtà mondane. Dio diventa interiore a noi, entra nella nostra stessa esistenza tramite lo Spirito Santo e ci trasforma dall'interno del nostro cuore. Su questo sfondo, proprio a Costantinopoli, Giovanni, nel commento degli Atti degli Apostoli, propone il modello della Chiesa primitiva come modello per la società. Sviluppa, se si vuol dire, una utopia sociale, l'idea di una città ideale. Si trattava infatti di dare un'anima e un volto cristiano alla città. Con altre parole, Crisostomo ha capito che non è sufficiente dare elemosine, aiutare i poveri caso per caso, ma che è necessario creare una nuova struttura, un nuovo modello della società e della nostra città, un modello basato sulla visione del Nuovo Testamento, su questa nuova società che si mostra nella Chiesa nascente. Quindi diventa realmente così Giovanni Crisostomo uno dei grandi padri della dottrina sociale della Chiesa. La vecchia idea della polis greca va sostituta da una nuova idea di una città ispirata dalla fede cristiana. Che cosa vuol dire? Crisostomo sosteneva con Paolo il primato del singolo cristiano, della persona, anche dello schiavo e povero. Il suo progetto corregge così la tradizionale visione greca della polis, della città, in cui larghi strati della popolazione erano esclusi dai diritti della cittadinanza, mentre nella città cristiana tutti sono fratelli e sorelle con diritti uguali. E il primato della persona, anche la conseguenza che realmente dalla persona si costruisce la città, mentre nella polis greca la patria era sopra il singolo totalmente subordinato all'insieme della città. Così con lui comincia la visione di una società costruita dalla coscienza cristiana, e lui dice, come abbiamo sentito inizialmente nella lettura, la nostra polis è un'altra, la nostra patria è nei cieli, e questa nostra patria anche in questa terra ci fa tutti uguali, fratelli e sorelle, e ci obbliga alla solidarietà. Al termine della sua vita dall'esilio ai confini dell'Armenia, il luogo più remoto del mondo, Giovanni, ricongiungendosi alla sua prima predicazione del 386, riprese il tema a lui caro del piano che Dio persegue nei confronti dell'umanità. È un piano indicibile e incomprensibile, ma sicuramente guidato dal suo amore. Questa è la nostra certezza, anche se non possiamo decifrare i dettagli della storia personale e collettiva, sappiamo che il suo piano è sempre ispirato dal suo amore. Così, nonostante le sue sofferenze, il Crisostomo riaffermava la scoperta che Dio ama ognuno di noi con un amore infinito e perciò vuole la salvezza di tutti. Da parte sua il Santo Vescovo cooperò a questa salvezza generosamente, senza risparmiarsi lungo tutta la sua vita. Considerava infatti ultimo fine della sua esistenza quella gloria di Dio che ormai morente lasciò come estremo testamento. Gloria a Dio per tutto. Grazie.